Sarebbe bello averti qui, tenerti tra le braccia. Tu sei la vita che sarà di fronte a noi. Apro le braccia per stringerti forte a me. Apro le braccia per stringerti forte a me. Tu sei dentro di lei e più vicino a te. Tu sei la vita che sarà di fronte a noi. Apro le braccia per stringerti forte a me. Apro le braccia per. E come il sole. Guarda l'ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco di Viaggio Segreto 2. Come si chiamava questa canzone? E come il sole. Quali saranno ora gli obiettivi di Viaggio Segreto per il futuro prossimo? Beh, gli obiettivi principali del futuro prossimo saranno innanzitutto fare una presentazione live adeguata a questo concerto. Certo. Lo stiamo già organizzando, anzi l'abbiamo già organizzato in realtà, sarà il 28 dicembre a Rovigo al Teatro Sociale, che è un teatro molto bello, molto importante di Rovigo, un'abitazione secondo noi azzeccata per fare questa presentazione. Tempio della musica classica, ma non per questo. Sì, esatto, si adatta perfettamente anche a dei concerti rock. Poi chiaramente adesso siamo in contatto con delle case discografiche, con delle etichette, stiamo valutando le proposte perché abbiamo intenzione di distribuirlo. Attualmente è distribuito un po' nella nostra zona, anche qua nella provincia di Verona, infatti è un disco, potete acquistarlo tranquillamente anche in un famoso centro commerciale vicino Legnago, non dico il nome, ma e ovviamente è acquistabile ai nostri concerti, beh, a Rovigo ovviamente nei negozi, però sì, siamo un po' in contatto con la casa discografica, dicevo, stiamo un po' valutando come muoverci. L'idea comunque è quella di cercare di dare il maggior visibilità possibile con tutti i media attualmente disponibili e poi si vedrà. Esatto, poi si vedrà. Siamo al quinto brano, cosa scegliete di far ascoltare? Allora, il quinto brano è un brano che presento volentieri, si intitola Riflesso nei tuoi occhi e qui canto con un'amica, si chiama Chiara Rigosa, figlia di un famoso, famosissimo cantante lirico che si chiama Danilo Rigosa, che ha cantato nei teatri più importanti di tutto il mondo, e questa canzone la cantiamo insieme, si intitola appunto Riflesso nei tuoi occhi. Sento che potrei dirti che insieme a me staresti meglio, ma la verità è che non sarei giusto per te. Ora sai starti accanto pensando a te, alle tue mani, senza poterti dire che ho bisogno di te. Fantasticando sugli sguardi che mi fai, mezze parole ed allusioni, tu lo sai che son qui per te, e che son qui con te, e dammi un segno che non sono solo un riflesso nei tuoi occhi. Sai, viene a prenderti, te ne vai, chissà dove, penso a quando resti sola con lui. Resto qui, lui mi abbraccia, ma penso a te, alle tue labbra, bacio lui, ma è come se fossi con te. Ripensando ai sorrisi che mi fai, quando mi sfiori ed arrossisci, tu lo sai che son qui per te, e che son qui con te, e dammi un segno che non sono solo un riflesso. C'è l'autunno che brucia le foglie che cadono dagli alberi, un anno è andato e io sono ancora con te. Il tempo come sempre vola e noi siamo quasi in chiusura di puntata. Vi ricordo i contatti per le segnalazioni, scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it, ricordo www.radiorcs.it per info su Radio RCS, Rock Legends e streaming per ascoltare la nostra radio attraverso il media player. Grazie a Viaggio Segreto per la partecipazione. Grazie a voi. Grazie. E a questo punto di nuovo a voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro disco ed un calendario di live già definiti. Beh, allora, se qualcuno fosse interessato ad approfondire un po', a sapere qualcosa di più sul Viaggio Segreto, su quello che stiamo organizzando, sulle nostre iniziative e sulle nostre canzoni, può visitare il nostro sito web www.viaggiosegreto.com. Da oggi sarà online la nuova versione totalmente rinnovata, in cui c'è la possibilità anche di scaricare dei brani, c'è la possibilità di scaricare anche il nostro vecchio disco, per quelli che se lo ricordassero, il disco del 96. Poi siamo attivi anche su Facebook, su Twitter, insomma i social network li abbiamo un po' tutti, ecco. Il nostro prossimo concerto, diciamo che non sarà un concerto di presentazione, ma sarà una data zero, anche un po' per testare questo live che stiamo organizzando. Lo faremo proprio qui a Casa Leone. Lo faremo in un locale che si chiama Il Ciclone, sarà l'8 dicembre. Quindi io vi invito tutti quanti, venite numerosi, mi raccomando. Molto numerosi, anche perché suoneremo tutte le canzoni del nuovo disco e suoneremo anche delle vecchie canzoni cui siamo affezionati, ma cui sicuramente i nostri vecchi fan sono legati. Certamente. Quindi vi aspettiamo numerosi l'8 dicembre al Ciclone di Casa Leone. Grazie a tutti e a presto. Brano per chiudere questa puntata? Questo brano si intitola Sangue Caldo e chiude bene, direi, questa puntata e questo appuntamento con RCS, con il Viaggio Segreto. Gianluca e Viaggio Segreto vi salutano, noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao! È troppo tardi per ricominciare, sai. È troppo presto per lasciarsi andare poi. E troppe scuse per tirarsi indietro ormai. Sempre alta sul freddo, mani calde e poi sento l'aria sulla fronte che schiarisce in te. Provo gusto a masticare questa notte ormai. Sento già che mi pento, ma con il tempo capirai che ci vorrebbe più spazio per scoprirti meglio. Adesso mi vedrai. Sangue caldo che hai. Sangue caldo che hai. L'aria fredda sul sudore mi risveglierà. Sento caldo in questo buio, credo bruceranno queste mani che comandano la realtà. Questo cuore che non riesce mai a dire no. Ti prego un giorno dimmi che verrà a portarmi via. Sembra quasi che la notte non finisca mai. Sento già che mi pento, ma con il tempo capirai che ci vorrebbe più spazio per scoprirti meglio. Adesso mi verrai. Sangue caldo che mi pensa.